24 mattino. Ed è arrivato il momento dei cani e di gatti. 8, 17 minuti, 30 secondi. Dall'altra parte dell'Italia c'è Oscar Giannino. Fra noi, fra pochissimo al telefono, il governatore della Lombardia, Maroni. E voglio dirvi una cosa. È arrivato il decreto fiscale, ringraziamo Dio che c'è. Avete solo due modi per capire come funziona. Uno è chiamare Giannino se avete il suo numero di telefono. L'altro è comprare la guida del Sole 24 Ore. Oggi è sabato. Split payment e scalate societarie. Oscar, dai il tuo numero, così se uno ha bisogno certo. E non vuole comprare però, il Sole però, ti chiama. Oggi c'è anche un'altra ragione, cari amici Topolini in ascolto, per comprare il Sole, perché questa è Cani e Gatti. E vi dobbiamo segnalare che ci sono alcuni articoli su queste nuove collezioni di cucce per i cani e per i gatti. Non sto scherzando, pagina 27, Giulia Crivelli, imperdibile! Ci sono le nuove cucce sospese per i gatti che vivono in case con bambini, come nel mio caso, a altezze più elevate, perché bisogna rispettare i gatti ed evitare che si azzuffino coi bimbi. Imperdibile, pagina 27, Giulia Crivelli, sul Sole 24 Ore di oggi. Allora, è con noi, credo, il governatore Maroni. Buongiorno! Buongiorno. Ci racconta questa polemica garbata ma legata al referendum con il governatore della regione Emilia-Romagna, cioè lei dice dobbiamo contrattare perché se facciamo come te, lo traduco un po' in italiano, non riportiamo a casa i soldi della sanità, o sbaglio? Ma io faccio il tifo per tutti quelli che chiedono e si attivano per ottenere maggiore autonomia. Rilevo che Stefano Bonaccini si è mosso dopo che io e Zai abbiamo indetto il referendum, quindi in qualche modo l'abbiamo stimolato, diciamo così. Dopodiché canta vittoria perché dice: io ho già fatto quello che voi farete solo dopo il referendum. Beh, a leggere il comunicato di Palazzo Chigi non pare proprio così, perché dice che Palazzo Chigi, sì certo, farà tutte le verifiche, se del caso anche in forma bilaterale, se del caso, cioè decide tutto Palazzo Chigi, e in ogni caso non c'è un euro dentro lì. Anzi, il giorno dopo aver fatto questo accordo tra virgolette a Palazzo Chigi, il governo cosa fa? Taglia all'Emilia Romagna 230 milioni e alla Lombardia 450 milioni. Esatto, questo è nella manovra quello che ci è stato comunicato ieri. Non mi pare che sia proprio un bel risultato. Ma come farete se il taglio sarà questo nell'immediato? È un bel problema, perché tagliare 450 milioni, soprattutto in una regione virtuosa come la Lombardia, che ha già fatto tagli, che è la regione che costa di meno per pro capite, che è la regione che ha ridotto le spese, che ha un numero di dipendenti che è un ventesimo di quelli della Sicilia, eccetera, eccetera, eccetera, e il rischio è che dobbiamo ridurre i servizi, e questo non va bene, perché con i tagli che sono fatti a noi e con il residuo fiscale che abbiamo, noi dovremmo avere qualche decina di miliardi in più, non 450 milioni in meno. E qual è il tavolo su cui vi muoverete prima o dopo domenica, oltre al voto, oltre a chiedere un voto per questo referendum? Cioè, ma cosa farete con Gentiloni? Il significato del referendum è questo: in 16 anni nessuna regione è mai riuscita ad ottenere più autonomia in attuazione della riforma del titolo V avvenuta nel 2001. Molte regioni ci hanno provato, ma Roma ha sempre detto di no. È per questo che serve il referendum, perché se io vado a Roma, io e Zai andiamo a Roma con qualche milione di Lombardi e di Veneti che hanno detto di sì, il nostro peso aumenta e le cose possono cambiare. Quindi domenica il referendum, da lunedì partiamo con la trattativa cercando di convincere il governo non solo a tagliare i tagli che ci propone, ma a lasciare in Lombardia quello che io chiedo che rimanga in Lombardia, cioè in parte quota consistente del residuo fiscale. Pensi che ogni lombardo, ogni cittadino, non ogni contribuente, ogni cittadino, compresi i neonati, ogni anno lasciano a Roma 5.400 euro pro capite per le spese delle altre regioni. Ecco, io chiedo che una quota rilevante di questi 5.400 euro pro capite torni nella regione regione dove sono prodotti. Le faccio l'ultima domanda, poi sicuramente ne ha qualcuno Oscar. La domanda è questa: il taglio complessivo però è 2,7 miliardi a tutte le regioni italiane. Non crede che se tutti insieme vi organizzaste per protestare riuscireste a ottenere di più? Che muoversi certo, separatamente. Ma è quello che faremo, non ci muoviamo separatamente. Il referendum è un altro obiettivo rispetto a questo che è il taglio. Ma io dico di più, se tutte le regioni adottassero il metodo lombardo per la spesa per la spesa pubblica, lo dice l'Ufficio Studi della Confcommercio, pensi un po', lo Stato risparmierebbe 23 miliardi, una manovra intera, solo per fare le cose come le fa la Lombardia. Si chiamano costi standard. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo perseguire, adottare il metodo di spesa che si fa in Lombardia, risparmieremmo 23 miliardi e quindi tutti questi problemi sarebbero risolti. Baroni, Giannino, ieri sul Corriere della Sera Gianfelice Rocca, quindi un grande imprenditore di un'impresa internazionalizzata, oggi Zoppas, un altro imprenditore di una famiglia storica dell'impresa veneta, fanno dei ragionamenti decisamente a favore dei due referendum e li articolano in una strategia oltretutto che riguarda l'Europa delle regioni, guarda anche alla necessità per gli stati di fare trarre lezione da quello che capita tra Spagna e Catalogna. Invece quello che vedo sui giornali hanno soprattutto quelli del centro-sud, per esempio oggi uno apre il Messaggero, oggi prima pagina l'ennesimo fondo, cioè un fondo tutti i giorni, quello di oggi è l'autonomia del nord nega le priorità di un paese e il costituzionalista Beniamino Caravita che lo firma. Come mai secondo lei c'è questa discrasia tra quello che dicono gli imprenditori e quello che nel dibattito pubblico l'informazione ha teso a ridurre di nuovo, come se fosse una cosa, se volete più soldi voi non abbiamo più autonomia anche noi? In fondo a Roma chiedono una legge per Roma Capitale, perché non si è mai creata neanche stavolta la cosa che più autonomia per tutti è la maniera per rispondere insieme? Sono i soliti pregiudizi, se posso scegliere io sto con gli imprenditori naturalmente, gente concreta che ha capito che quello che noi chiediamo non è dare meno soldi al sud, spendere meno, ma spendere meglio, una spesa pubblica fatta come si deve, col metodo lombardo, non toglie risorse al sud, costringe gli amministratori del sud a essere più virtuosi, migliorando i servizi, questa è la verità. E allora c'è chi ha paura al sud di dover essere messo alla prova, di dover dimostrare di saper fare invece che solo di saper ricevere i contributi a pioggia che vengono dal nord e dal governo, tutto qua. Quindi ben venga questa presa di posizione da parte degli imprenditori. Perché Maroni, il vero, uno degli ostacoli che resta, e questo vedremo anche la partecipazione, è vero che lei dice sopra il 34 sarà una cosa positiva sotto, no, ma al di là di questo uno degli ostacoli che forse non si riesce per bene ad affrontare da parte dei proponenti del referendum è questo, cioè la domanda, anche Luca Telese spesso per esempio obietta, ma io ho l'impressione che sia la voglia di chi ha di più, chi produce più reddito, di tenersi i soldi per sé, cioè è una specie di sport per ricchi, chi ha meno reddito a quel punto ci rimette. Questa è l'obiezione di fondo, Maroni. Sì, ma un'obiezione assolutamente infondata. Nel nostro quesito c'è scritto: volete che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, cioè le cose che ho detto prima, nel quadro dell'unità nazionale, è scritto nel nostro quesito, nel quadro dell'unità nazionale non vuol dire solo che la Lombardia non se ne andrà come la Catalogna, ma nel quadro dell'unità, per me unità vuol dire anche unità sociale, unità economica, vuol dire aiutare, vuol dire generosità, e questo che al sud non si capisce, o almeno che alcuni giornali non vogliono capire. Cambiano le cose, cambiano in modo virtuoso anche per il sud, ma ripeto, gli amministratori del sud, i miei colleghi governatori saranno chiamati a una prova di responsabilità, che vuol dire non prendo più gli stipendi per i forestali della Calabria, prendo le risorse dal nord per fare investimenti, per produrre lavoro per i giovani. Questa è la sfida. Senta, c'è una micro polemica che si sta alimentando col conto a rovescio del voto. Qualcuno dice sì, però in Veneto hanno fatto lo stesso referendum ma hanno speso di meno perché non hanno comprato i famosi tablet. Che cosa risponde? Si sente Zaia è stato più taccagno o più virtuoso? Ma noi siamo avanti come Regione Lombardia e quindi sperimentiamo per la prima volta in Italia, lo sottolineo, il voto elettronico in tutte le sezioni, in tutti i seggi. Non è mai successo in Italia e io penso che sia una cosa utile e interessante da fare. Non è una spesa, è un investimento quello che abbiamo fatto. Queste macchine elettroniche, che sono dei mini computer che abbiamo comprato, rimangono di proprietà della regione, potranno essere usati per future consultazioni e soprattutto li lasciamo in dotazione alle scuole lombarde perché li usino come strumenti didattici. Quindi è un investimento a favore dell'istruzione delle scuole e questa è la differenza, questo è il vantaggio, quindi sono soldi ben spesi. Bene, grazie, salutiamo Maroni, fra poco avremo Zaia in questa vigilia elettorale. Oscar, eccolo, ci sei? Ecco, ma lo sai che oggi si sono arrabbiati, qualcuno mi ha mandato messaggi arrabbiati perché ho detto che ci sono 40.000 avvocati in Lombardia e sono tanti, ma allora mi hanno detto sì, ma il tasso pro abitanti, lo so, c'è anche il tasso pro abitanti, ne approfitto per correggermi, in Campania, o per integrarlo, in Campania la media di avvocati pro capite è 8.5, in Lombardia è 4, anche se ci sono 40.000 avvocati, lo leggevo dalla Verità, però non è che ho detto che c'erano dei contrabbandieri, ho detto che c'erano degli avvocati, c'è molta molta attenzione, ora ogni volta trovo una tabellina sulle locali regioni. Ci sono, questa è la migliore risposta, che dice che siamo un paese averli. Unito, l'Italia non si discute, tutte chiacchiere. Ma non è bello averli gli avvocati? Perché no, sono troppi. Dire? Sono troppi. Ma in termini di produttività comparata, questo da anni anche in Lombardia, anche 40.000 vuoi decimare. In Italia, ma non voglio. Ah, dalle con questo decimare. tu hai capito che se in troppi fanno una cosa, la fanno sì, a bassa produttività. Cioè, capisci? Il tuo mito, assumiamo tutti, significa ma un paese che ha produttività. Nessuno di questi ha assunto. No, questi sono liberi professionisti. I liberi professionisti che si guadagnano da mangiare. Si guadagnano da mangiare, se sono troppi, a costi molto più bassi, con produttività molto più bassa. Cioè, il problema delle professioni in Italia è stato credere, anche in quel caso, che il paese continuasse a crescere del 3, 4, 5% nominale l'anno e quindi c'era bisogno di un numero di avvocati multiplo di 7 volte quello della Francia. E invece no, non è stato un errore. E infatti gli avvocati di civile che si strappano per 2 centesimi le cause di condominio, guarda, non è un bel vivere. Se vai a vedere la media dei redditi delle professioni avvocati, commercialisti, questi anni è scesa drasticamente a doppia cifra, per questa ragione qua. Quindi, allora, cari papà, il vostro figliolo che dice voglio fare l'avvocato, dovete dirgli no, devi fare un'altra cosa. Lo sai che al Fatto Quotidiano ha parlato l'artista che ha fatto il piumone per Putin? Oh, quello mitico con i due che... Ha fatto anche degli accappatoi per Obama su misura. Sì, forse anche per Weinstein li faceva, chi lo sa, perché se fornisce Berlusconi, vabbè. Come sei cattivo. No, è la linea, io queste cose degli accappatoi, vabbè. Fermiamoci e torniamo fra poco. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Ai. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Mattino. Rieccoci, è il momento dei cani e dei gatti. Ci siamo lasciati parlando dell'intervista di Antonello Caporale sul Fatto al mago delle lenzuola Michele Cascavilla, che ha fatto il piumino con Putin e Berlusconi. Ora voglio dire a Oscar se sa quanto costano un paio di queste lenzuola. Preferisco non sapere. No, ma sai quanto costano? Diciamo, no, forte. Così prova a dire una cifra. No, proprio no. Prova a dire una cifra. Dillo tu. Solo, dice lui, solo 550 euro, perché ho voluto fare un prezzo speciale rispetto a quelle che costano 900. È bello, interessante questa cosa. No, proprio chi se ne sa. Ma lo sai di che vista noi passiamo zero, il 33% del nostro tempo biologico dentro le lenzuola? Io molto meno. Maurizio Lupi, buongiorno. Lei quanto tempo passa fra le lenzuola a letto? sempre nella statistica, 33%. Ecco, questo è un uomo di centro. Ma perché Lupi è un saltista, Lupi corre, lo sappiamo tutti, ha una linea perfetta, quindi 8 ore di sonno, io li ammiro quelli come lui. Quanto pesa Lupi con questa fitness mattutina? Allora, mi sto preparando il 5 novembre, alle elezioni siciliane, ma alla maratona di New York, e adesso ho aggiunto il peso giusto di 72 kg. Ma che figurino. No, ma Lupi è... Per fare la maratona è meglio evitare di avere molto peso sulle ginocchia. È il personal trainer del centro italiano. Allora... No, ma poi in realtà pochi sanno, Lupi tutto questo lo fa non solo per convinto, perché è salutista, per preservarsi per i figli, ma lo fa perché la sua vera come sfida... per i figli? Chi mette al mondo, chi ci tiene la famiglia si deve preservare per il futuro, lo so, tu sei uno che non ci pensa meno a queste robe, ma noi invece siamo convinti di doverlo fare. Ma detto questo, la vera sfida di Lupi, cari ascoltatori, è con Berlusconi, perché Berlusconi è convinto che batterà tutti come record di durata in vita e in politica, noi glielo auguriamo. Lupi invece gli ha detto, è una vecchia scommessa con Berlusconi, dice, vedrai che ti frego, questo vi do questa piccola cosa. Ma uno dei due, scusate lo spirito macabro, non sarà lì per incassare, diciamo. Allora, che c'entra? Saremo testimoni noi, tutti gli italiani saremo testimoni. Vedrete che Lupi ci sarà una donazione. 30 anni come oggi ed è lì. No, Berlusconi è imbattibile. Ecco, questo, lo sapevo. Quindi, adesso. Allora, Lupi, lei ha segnato una discontinuità con la sua leadership e i giornali hanno un po' semplificato così. Il centro va di Lupi e di Alfano va verso destra. È così? Sembra una semplificazione, anche perché io credo che noi abbiamo davanti, innanzitutto in politica, perché la politica è lo strumento per aiutare, dovrebbe essere lo strumento per aiutare ad affrontare le sfide di una società che guarda al futuro lavorando oggi. Stiamo affrontando sfide nuove, complesse, enormi, con strumenti che sono vecchi. Paradossalmente siamo tornati indietro con le lancette dell'orologio. Sembra il vecchio centrodestra e il vecchio centrosinistra con la variabile 2013 dei ribellisti, populisti, stranisti, eccetera, Movimento 5 Stelle. Io credo invece gli stranisti, che qualcosa è bello. Ci hanno insegnato questi 5 anni, dovrebbero averci insegnato questi 5 anni, tra il 2013 e il 2018, che forse la politica è fatta di scontro tra tifoserie, forse non serve. La politica fatta di premesse che poi non si possono mantenere hanno un unico risultato, che è quello di allontanare i cittadini da noi, e che quindi c'è bisogno di una proposta politica che seriamente si rimbocca le maniche, cerca di affrontare le cose, mette in gioco se ha delle qualità e delle capacità, si fa misurare i suoi risultati e poi i cittadini lo giudicheranno. Questo si chiama proposta politica per noi. Ho capito, siccome questa legge prevede l'apparentamento, se si votasse oggi, lei a chi si apparenterebbe? Al centrodestra e a Berlusconi o a Renzi? No, questa è una lettura, dal mio punto di vista, ovviamente assolutamente sbagliata. Questa legge elettorale prevede innanzitutto una cosa: 400 deputati su 630. Piaccia o non piaccia, saranno eletti col sistema proporzionale, cioè gli elettori sceglieranno una proposta politica e un partito. Le coalizioni, essendo riguardando solo 231 deputati, grandi deputati di collegio, si faranno solo, non perché per vincere contro l'altro, che è stata la rovina di questo paese, ci mettiamo insieme, il bipolarismo secondo me cattivo, non quello sano, ci mettiamo insieme perché dobbiamo sconfiggere, una volta dobbiamo sconfiggere i comunisti che tra virgolette mangiano i bambini e l'altra volta il demone Berlusconi che è la destra che torna eccetera. Quindi dal mio punto di vista si deve avere il coraggio di schiena dritta, come dico, e il coraggio delle proprie idee della faccia, di presentarsi, di andare da solo, di fare le coalizioni perché costretti, e poi saranno i cittadini a scegliere. Anche perché quindi, guardare a destra, guardare a sinistra viene torcicollo. Anche perché ma io voglio capire una cosa, anche perché io ci vedo un giudizio implicito al nostro esplicito su questo. Luca Trese l'abbiamo spiegato più volte in questi giorni, da che è chiaro l'impianto della legge Rosato, noi abbiamo alcune obiezioni di fondo, una di queste è proprio su queste alleanze, coalizioni, diciamo così, autodissolventosi all'indomani della legge, della prova della legge elettorale. Quindi tanto vale, Cioè, io capisco e apprezzo chi non le fa, perché dice tanto quelle che vi dichiareranno per la parte maggioritaria, che serve eleggere solo un terzo dei seggi, sono tra virgolette, non voglio dire false, ma non hanno senso, perché tanto tutti dobbiamo sapere che non si governerà con quello, è così? Posso interromperla, ma vi faccio un esempio banale. Il 22 ottobre, cioè domenica, si vota per il referendum sulle autonomie in Lombardia e in Veneto. Piaccia o non piaccia, secondo me è un grande tema questo, come riorganizzare lo Stato, Stato centrale, regioni, che secondo me devono riorganizzarsi bene. La coalizione che sembra presentarsi di centrodestra su un tema non indifferente, stiamo parlando a degli ascoltatori che sanno che cosa vuol dire decentrare i poteri o non decentrarli, uno Stato, cioè, se usi le risorse bene o male per la sanità, è divisa. In questa coalizione c'è uno dei leader della coalizione che si chiama Meloni, nazionale, Fratelli d'Italia, che dice all'altro leader della coalizione che si chiama Lega Salvini che questo referendum è una stupidata, non serve a nulla e che bisogna tornare ad uno Stato centrale molto forte. Si chiama teoria dei sovranisti. Questi due persone, che sono anche amici, che stimo, voglio dire, ma che hanno legittimamente, Salvini e Meloni, si preparano e dicono facciamo una coalizione per governare il paese. Contemporaneamente, ieri, il presidente Berlusconi va al Partito Popolare Europeo in Europa e dice che mai e poi mai potrà pensare che la politica di lasciare l'Europa che propone Salvini potrà affermarsi. Cioè, ma come si fa a stare insieme in questo modo? Ma si pensa poi che chi ci, cioè il giorno dopo che ci hanno votato, ci mandano a casa per l'ennesima volta e poi ci lamentiamo che i 5 Stelle hanno il consenso che hanno, nonostante l'incapacità poi quando sono chiamati a governare di governare. Io credo che ci debba essere una proposta politica, vedete, se hai coraggio. Se hai Ma quindi lei con la Meloni sente che potrebbe non fare coalizione per una pregiudiziale sulla sua posizione, no, sull'autonomia? Non sto dicendo questo, sto dicendo che le coalizioni si mettono insieme se si riconoscono su un programma comune e una capacità comune di governo. Noi siamo stati insieme per 20 anni nella coalizione di centrodestra, ma con un pilastro forte che si chiamava Centro, Forza Italia, Popolo della Libertà. Il Popolo della Libertà nel 2008 aveva il 39%, il 39% dei voti, il Popolo della Libertà. E allora ti puoi alleare, non è che non ti puoi alleare, perché prendi una diversità e la fai diventare una ricchezza. Uno dice più sicurezza, non è un elemento negativo. Berlusconi si alleò con il Bossi, che andava a fare i comizi, ve lo ricordate, no? Dicendo la secessione. Quel tema aveva un elemento interessante da un punto di vista della politica, che era dire attenzione, forse il tema della sussidiarietà è un tema importante, cioè chi sta vicino al cittadino conosce meglio le sue esigenze, lo giudica meglio, il cosiddetto federalismo. Ma se non hai una forza politica centrale non ti allei con nessuno. In questo momento quella proposta politica ha una fortissima debolezza, che è guidata non da una proposta moderata, ma più da una destra che va avanti con le sue proposte. Bene, allora grazie a Maurizio Lupi. Buona maratona. Preso. Buona ora sappiamo, maratona. Ci sincronizziamo sulla maratona e sulla corsa mattutina. Buongiorno, Oscar. Ecco, ma tu la fai la maratona? Io, ma non lo vedi come sono in efficienza fantastica? Sono proprio sotto di poco i 100 kg. Ma non è vero, dai. Ma perché dai queste notizie per far preoccupare i nostri ascoltatori? Secondo me tu un mesetto di un po' di cose potresti anche tu fare la maratona. Questo. Non perdiamo la fiducia nella nostra. Hai visto che hanno sbocciato 2 domande su 3 per l'AP Social? Ma perché hanno fatto il loro mestiere? Invece l'attacco in corso significa che l'AP Social deve diventare uno sfondatutto, e infatti la pressione a questo posto Boeri sono disoccupati di 63 anni, alcuni dei quali lavorano quando ne avevano 15. Li vogliamo mandare in pensione? No, o li vogliamo tenere alla mensa della Caritas? Luca, su questo siamo a Radio 24. Allora il nostro compito è, se c'è una norma che attribuisce dei criteri per dare l'AP Social, noi ci aspettiamo come cittadini contribuenti che essa vada rispettata, non che quindi chi fa l'esame tecnico dice se non hai i requisiti non te la do, non che le norme siano interpretate norme come ogni volta omnibus per sfondarle, sì, avevano considerato, quindi lavoro, Luca, stai dicendo che bisogna sfondarle? Io no, la penso di no, la pensiamo diversamente. No, sottosegretario esprime un'opinione politica, io invece applaudo agli uffici tecnici tecnici dell'INPS che hanno svolto benissimo il loro compito. Ha detto mentre che invece l'offensiva plurima, come la che tua erano... che tutti i giorni pare dell'argomento, perché giustamente lo rispetto, ma appartiene a un'opinione che dice bisogna persone. Sfondare questa roba delle pensioni, dall'idea di un paese inconsapevole di quello che sono i conti della previdenza. E beh, ripeto, ma siamo qua anche per incarnare, con rispetto delle ragioni di tutti e delle ragioni di chi dice ho lavorato troppo, benissimo, però il punto è che se c'è scritto che in una norma ti si può dare l'app social se hai dei requisiti, quello che poi non può stupire è la chiedono in massa organizzate dai sindacati, altri che non le hanno, e poi dicono ma come non ve la danno? Ah, Boeri, rispondi con la testa. Ma pubblicità. Mattino. Allora rieccoci in diretta, Luca Telese, Oscar Giannino e il governatore del Veneto Zaia. Buongiorno Luca Zaia. Buongiorno, grazie per l'ospitalità, buongiorno a tutti. Senta governatore, lei di Prego. Solito a che ora si sveglia, così per capire, perché facciamo anche questo sondaggio. 4:30, 5:30 caro Luca, vedi il nord operoso, vedi il nord operoso che si sveglia presto. Ma no, da quando? Guardate, no, non perché sono uno stoico, perché fin dagli anni dell'università ho sempre avuto il problema dell'insonnia, per cui dormo 4 ore, 5 al massimo. E quindi... Però comunque il mattino l'oro in bocca. Dice, no? È vero, ma quando si sveglia che fa? Beh, la prima roba è il cane, perché il cane ormai c'ha quei ritmi. Da far uscire, e poi mi attivo subito, non ho i risvegli lenti, in tutta sincerità, sono veloce, quindi mi metto subito in strada e magari leggo i giornali o faccio subito dell'attività. Quindi se uno alle 4:30 esce in strada nel suo quartiere la trova col cane. Ah. Vado a correre. Bene, ottimo. Allora, andiamo subito al dunque, parliamo di questo referendum e parliamo dei tagli alla sanità. Si sentirà, come dire, più forte a chiedere da solo, insieme alla Lombardia, più autonomia o insieme agli altri governatori a combattere contro i tagli che si prospettano per la sanità veneta, lombarda, ma per tutte le sanità regionali italiane? Ma guardi, potrei rispondere con un detto che da soli si fa prima, assieme si fa molta più strada. Far squadra su questa Bello. Partita è importante, però è altrettanto vero che noi dobbiamo obbligare, e so che Oscar Giannino è un grande sostenitore di questo, che si introducano i fabbisogni costi standard, non possiamo più accettare tagli orizzontali, è una roba scandalosa. Ma se passasse questo taglio, lei come farebbe quest'anno se passasse questo taglio che è nella manovra? Cosa guarda, taglierebbe? Ogni anno ci sono ipotesi di tagli. In generale, io le do solo un dato, mi permetto il video, lo faccio veloce. Sì, 2,7 miliardi il totale, no? Sì, consideri che io ho preso in mano questa regione nel 2010, aveva una cifra libera per le politiche regionali di 500 milioni di euro. Il bilancio 2017 è una cifra libera per le politiche regionali di 52 milioni di euro, cioè un decimo di quello che avevo 7 anni fa. Cioè, allora, o ci rimettiamo nelle condizioni che ci sono 30 miliardi di sprechi in Italia e bisogna andare a scovarli introducendo i costi standard, introducendo virtuosità, oppure finirà che non riusciremo più neanche a curare i cittadini, e questa è la tragedia. Cioè, la mia è una regione virtuosa, lo dice il governo, e la regione virtuosa del Veneto dice che nella sanità non si può andare oltre nei tagli, è impossibile. Guardi, io glielo dico perché non applico neanche tasse regionali, io non prelevo dalle tasche dei Veneti 1.159 milioni all'anno, io non applico neanche i ticket regionali, ho fatto la scelta anche di non applicare i ticket, però basta. Basta e chiedere tagli. Oscar, come mai la reazione evidente della politica è sperare che i veneti e i lombardi non vadano a votare? Cioè è palpabile che questa è il calcolo prevalente, come devo dire, cioè il rifiuto totale di affrontare questo problema ancora una volta. Dopo tanti anni i trattativi sono stati diversi, tante regioni ci hanno provato con 116, i governi li hanno sempre mandati a stendere, eppure mi pare che l'atteggiamento prevalente sia quello, vabbè, ma perché? Ma è un non problema quello dell'ordinamento tra centro e autonomie. Lei che da anni si impegna per questo, la risposta alla domanda com'è che più della politica e delle istituzioni italiane continua ad avere questo atteggiamento, qual è la risposta che si dà? Ma guardi, io le dico che i padri costituenti immaginavano un paese, pensate, uscivamo dalle macerie della seconda guerra mondiale, quando hanno scritto la Costituzione hanno scritto un documento che doveva essere operativo, e quindi ci immaginavano molto simili alla Germania, che in quegli anni faceva la Costituzione, che è meno simile alla Grecia. La gestione di questo paese è stata una gestione centralista che ha devastato i conti pubblici, assistenzialista, e quindi fanno paura i veneti che vanno al voto, sa perché? Vuol dire che quella storia distante dell'impero, no? Quei mezzadri veneti che per Roma hanno l'anello al naso, non ci hanno più l'anello al naso. È l'ora del riscatto dei veneti, è l'ora di dimostrare che noi siamo rispettosi della Costituzione. E mi faccio citare Napolitano: l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. Allora, più Stato, chi vuole più Stato? La Sicilia, che non riesce a incassare con 10 decimi delle tasse che restano in Sicilia, cioè tutte, non riesce a incassare 52 miliardi di tasse dei suoi cittadini. È evidente che ha bisogno di più Stato, perché l'autonomia la gestisce male. E meno Stato dove ci vuole meno Stato. Zaia, una domanda. Lei subisce, diciamo, una critica più da chi è più radicale e una critica da chi è ovviamente antiautonomista. Gli antiautonomisti dicono che questo è un primo passo per poi arrivare a forme più drammatiche come quelle catalane. Chi è più radicale dice: ma questo è un referendum consultivo, non ha valore, alla fine avrà un valore simbolico ma non avrà un peso reale nel rapporto di negoziazione con lo Stato centrale. Cosa risponde? Vuol dire che sono nella posizione giusta, perché Gandhi diceva che prima ti ignorano, poi ti deridano, poi ti combattono e poi vinci. Nel senso che io faccio il mio dovere, lo faccio con rispettando le indicazioni che ho avuto dalla mia gente. Vi ricordo che nel mio programma di governo c'era l'autonomia nel 2015 e nel 2010. Penso che sia fondamentale dire che siamo rispettosi della Costituzione, che non ci debbano essere altri contenuti di indicazioni sul tema se non quello dell'applicazione di 4 articoli della Costituzione che prevedono 23 materie più il federalismo fiscale, che la Corte Costituzionale dà ragione a noi. Tutti si dimenticano che noi andiamo al voto con una sentenza della Corte che dice che il referendum va fatto prima della trattativa, ci dice che è giusto sentire il popolo e ci dice che nella trattativa bisognerà tener conto del referendum. La Corte Costituzionale, sapete alla fine cosa dice? Dice che le riforme dall'alto non si fanno più in questo paese, cerchiamo di farle dal basso. Il popolo fa paura, il popolo fa paura, ma il nostro è un popolo pacifico che andrà al voto e si esprimerà. Questa è una partita, è una pagina di storia bianca che deve essere scritta dai veneti. Senta, grazie. Lei l'ha capito, l'ultima domanda secca, lei l'ha capito, vero, che i plausi che sono venuti dai giornali italiani ai manganellatori da parte di Madrid a Barcellona erano in realtà rivolti a voi dicendo agli italiani non andate a votare, vero? Ma guardi, io penso che quei manganelli debbono essere assolutamente criticati e condannati. Penso che Rajoy non ha avuto il coraggio di Londra quando si è trovato nel 2014 il referendum scozzese. Londra lo ha accettato, ha fatto la campagna per il no e ha vinto. Rajoy, abbiamo visto come la sta gestendo questa partita. Infatti, so che Luca non è d'accordo, però io lo penso. No, grazie a Zaia, ma addirittura dire che le manganellate siano state elogiate perché qualcuno voleva impedire di andare a votare in mezzo. Qui nessuno impedisce nulla, Oscar. Siamo in democrazia. Si vota tranquilli e si pesano i voti. La soddisfazione della stampa italiana su Rajoy che reprime con i manganelli è una cosa veramente si vota in Veneto, si vota in Lombardia, si vota in Sicilia, si vota anche a Ostia. Io leggo oggi sui giornali dei commenti che veramente mi fanno grattare la testa. Perché Fuori nomi! Tutti i giornali del centro-sud sono, ma leggiteli, cioè tu sono, ci vedono. Ora pure i giornali terroni. Professori cattedratici che dicono il residuo fiscale è una chiacchiera, sono tutti numeri inventati. Questa è gente che sta in cattedra. Io mi preoccupo di un paese così molto. Giornali Terroni, ciao, a domani. Dottor J e Mister I, trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. JGalileo.com vi ha presentato 24 mattino.